anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! Radio Wombat. Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui su Radio Wombat per questa nuova puntata di Basement Records, esattamente la 43esima, una delle, penso, anzi la prima puntata di Basement Records che faccio tutta completamente da solo, quindi se già di solito ci sono degli svarioni enormi, stasera mi perdonerete ancora di più perché sono qua a mettere i dischi, a gestire i suoni tutti da soli. Mi saprete dire se dovrò licenziarmi dal Radio Wombat oppure no. E questa, ripeto, appunto è Basement Records, la 43esima puntata. Ci sono ancora dei vinili che ancora non avevo messo, di tutti quelli che mi erano stati portati in dono direttamente da Radio Comanci di Campi Bisenzio, storica radio libera dell'area fiorentina degli anni Ottanta. E voglio ricordare che prima ancora questi dischi, prima di arrivare appunto a Radio Comanci di Campi Bisenzio, erano addirittura di una precedente radio libera dell'area fiorentina, erano di Antenna Libera Toscana, che cessò la sua attività proprio sul finire degli anni 70, e poi arrivarono appunto a Radio Comanci, che terminò la sua attività, credo, se non ricordo male, intorno a metà degli anni 80 appunto, e poi sono arrivati di passamano in passaparola qui a noi di Radio Wombat, e ve li stiamo facendo molto lietamente ascoltare, almeno per quanto mi riguarda, tutte delle gran chicche. Ringrazio tantissimo Carlo che ci ha prestato questi dischi, spero che non siano finiti, che ce ne saranno degli altri, però banda alle ciance, ciancio alle bande. Partiamo con la puntata di stasera e come sempre, prima di iniziare, voglio ricordare tutti i canali per mettersi qui in contatto con noi di Radio Wombat. Il nostro indirizzo, il nostro sito è sempre radiowombat.net. La nostra frequenza in AM, in onde medie per la zona di Firenze e a quanto pare anche ormai limitrofi dell'area fiorentina. Sembra che l'antenna del Wombat si stia piano piano fortunatamente espandendo sempre più in là. Diteci fin dove riuscite ad ascoltarci, e se non riuscite in onde medie sulla vostra autoradio perché siete fuori dalla provincia di Firenze, come sempre c'è la versione web appunto su radiowombat.net. La nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono rimasti sempre gli stessi, sia su Twitter che su Facebook, ovvero twitter.com/radiowombatfi e su Facebook facebook.com/radiowombatfirenze. Se avete riconosciuto la sigla, era ovviamente la sigla che mettevo ultimamente e anche stasera. Questa era Build Me Up Buttercup dei Foundation, classicone pop degli anni 60, direi, come già ampiamente detto, ormai credo ampiamente abusato, perché addirittura l'ho sentito come background musicale di delle pubblicità, e insomma ha fatto furore questo Build Me Up Buttercup. Però, come è spesso accaduto nelle puntate di Basement Records, visto i vinili che ci sono rimasti da ascoltare, proprio non c'entra assolutamente niente con la musica che ci andremo ad ascoltare adesso, perché stiamo parlando di quasi tutto punk e post-punk di fine anni 70, inizio metà anni 80, quindi appunto i Foundation erano solo per traviare le vostre idee e anche per fare così un giochino che magari vi aspettate una cosa e poi sarà tutta un'altra. Infatti ci aspetta una puntata decisamente punk, direi. Infatti qua sulla mia destra ho già pronto un disco storico di una band ancora più storica del punk londinese e del post-punk. Stiamo parlando dei leggendari anarcho-punk dei Cress. E abbiamo addirittura due album stasera da ascoltare dei Cress. E il primo che ci andremo a sentire, che è già qui sul piatto, è il loro album del 1981, Penis and Vi. Senti qua la P potente, come si è sentita questo. In questo album era un album sul tema fondamentalmente femminista, infatti le voci soliste sono delle due voci femminili dei Cress, senza appunto la voce maschile solista che adesso mi ricorderò di Steve Ignorant, appunto, scusate, un lapsus, e appunto si potrebbe quasi definire un concept album punk, quindi già decisamente post-punk. Infatti questo appunto è sul tema delle lotte femministe, e appunto per non continuare ad ammorbarvi con le chiacchiere, facciamo subito partire il primo brano di stasera dalla collezione dei vinili, e questi sono i Cress con Poison in a Pretty Pill. Questi sono, come già detto, i Cress, questa è Basement Records, ovviamente qui su Radio Wombat, e dove se no. Thank you. E questa era Poison in a Pretty Pill, appunto da questo Penis Envy del 1981, brano dei Cress, appunto dal loro terzo album, se non vado errato. E sempre da questo album, adesso album sul tema prettamente femminista, ci andremo ad ascoltare un altro brano, ovvero dopo Poison in a Pretty Pill ci andremo ad ascoltare Dov'è il prossimo Colombo? Where is the next Columbus? Non potevo non metterlo questo pezzo, e questi quindi sono sempre i Cress qui a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no. Into life and slowly gutted. Place of sickness is to die in. Tired of the cruelty and lying. Get the first tears of the conversation. They say you soon have your upper walking. The prison grew stronghold. Took the lies for a love song. Paid for life on a shoestring. Waiting for the last to fall away. Questa era Where is Next Columbus dei Cress. E appunto vi dicevo che tra questi ultimi vinili portatici in dono appunto da Radio Comanci c'è anche un altro LP dei Cress che è il successivo del 1983, Yes Sir, I Will. E anche questo è decisamente, direi, un concept album per essere considerato un album punk, visto che lì per lì pensavo fosse un singolo, e invece no, è proprio un album con due facciate, sempre con lo stesso titolo, Yes Sir, I Will, con durate leggermente diverse tra un lato e l'altro, e quindi non proprio il classico brano punk, e qui oltre a essere anarcho-punk io direi che è già decisamente post-punk, visto che siamo nel 1983 e ci andremo ad ascoltare la versione del lato A di questo Yes Sir I Will. E tra l'altro volevo aggiungere, visto che come abbiamo detto tante volte qui a Basement Records, una delle cose meravigliose che c'erano appunto del vinile sono ed erano le copertine e gli artwork di questi dischi, e nel caso di questi due album dei Cress penso che si distinguessero proprio anche dagli altri gruppi punk, anche per questo, perché le due copertine, i due proprio album, nel senso fisicamente sono due opere d'arte, cioè sono di quelli che si aprono tutti come un libro, addirittura nel caso di Penis and Vi si apre quasi come una mappa, e il disco è dentro quasi come se fosse, non so, appunto l'oggetto prezioso che è, e anche solo per l'estetica e la grafica delle copertine direi che siamo già decisamente oltre il punk. E allora andiamoci ad ascoltare da questo Yes Sir I Will del 1983 il lato A di questo LP, e guardiamo se ce l'ascoltiamo tutto, se lo farò fermare a una certa, vi lascio nell'attesa, intanto e con il dubbio, intanto ascoltiamocelo. E siete sempre qui, ovviamente, non ve lo dimenticate mai, a Basement Records, Radio Wombat. Yeah. Basement Records, Radio Wombat, questi sono i Cress. Fuck off. Go on that pug and a fucking window, you spiky little punk. doors at the windows are coming in. Catching the smoke in there is just another punch in the show. Basement Records, Radio Wombat, questi sono i Cress. Thank you. questa era la lunghissima, tutta l'intera facciata del lato A di questo Yes Sir I Will dei Cress. Sapete che io odio profondamente tagliare i brani e tagliare le cose, quindi ce la siamo ascoltata veramente tutta, anche perché credo che ne valesse assolutamente la pena. Cioè un brano dalla lunghezza praticamente progressive, anche per la sua evoluzione lungo tutti questi 20 minuti, ma con un'estetica assolutamente punk e post-punk, anarcho-punk, visto appunto di chi si sta parlando, dei Cress, che se ai voi non le conosceste, sappiate che sono, penso, uno dei gruppi più vicini alla nostra indole qui di Radio Wombat, fra i primi iniziatori delle autoproduzioni e dei concerti e dell'occupazione degli squat londinesi, che appunto ha fatto nascere tutta la scena anarcho-punk londinese e tutto l'humus che c'era e si viveva negli squat della capitale britannica su quel finire degli anni 70, appunto in piena preda del thatcherismo e tutto il resto. Sempre restando appunto su questo filone, vi avevo avvertito, ma assolutamente bene, perché mi ha dato la possibilità, questi dischi ancora non suonati di Radio Comanche, di conoscere il prossimo gruppo, ovvero gli Essential Logic, band della sassofonista punk Nora Logic, che era una fuoriuscita di una, non so se in quel caso avesse già lasciato la precedente band, comunque era più che altro famosa perché era la sassofonista di un gruppo punk seminale, ovvero gli XPEX Rays, che erano veramente tra le band seminali poi dell'esplosione punk, e questo è uno dei suoi progetti solisti, appunto Essential Logic, con Laura Logic al sassofono, che poi tra l'altro soprano e tenore, anche solo per curiosità, appunto, come ha interagito appunto con il resto della band, ero stato curiosissimo di questo album. Appunto con Laura Logic, la leader e sassofonista di questa band. Poi abbiamo Ashley Buff alla chitarra e ai cori, Dave Wright all'altro sassofono, alla voce e alle cowbell, Mark Turner alla chitarra e Rich T alla batteria. E quindi da questo Essential Logic, album intitolato Beat Rhythm News Waddle Ya Play, ci andremo ad ascoltare adesso la prima traccia del primo lato di questo vinile, che è Quality Crayon Wax On. E qui siete sempre a Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? Yeah. E questi appunto erano gli Essential Logic di Nora Logic, bellissimo questo pezzo, questo Quality Crayon Wax On, a me è piaciuto moltissimo con questa aggiunta di un doppio sassofono addirittura. Qui siamo già sicuramente nel post-punk, però per rimanere sempre su questa linea, anche se credo decisamente più pop, ci andremo ad ascoltare il prossimo vinile qua che ho qua sul piatto. Il gruppo tutto al femminile delle Slints, discretamente famose direi in ambito lo definirei già punk rock. E questo disco è un disco un po' particolare, perché non è un disco, diciamo, è un semi ufficiale del gruppo, addirittura un album senza titolo, un album in cui non è segnato né il lato A né il lato B, dove in entrambi i lati ci sono tutti i titoli contenuti all'interno dell'LP. Spero di aver azzeccato il lato, spero di aver azzeccato la canzone. Questo era il gruppo di Hurry Up, credo la componente più famosa delle Slints, o che almeno, quantomeno a me, fa tornare alla mente qualcosa. E teoricamente questo pezzo, da questo album del 1980 delle Slints, questa raccolta di bootleg del 1980, dovrebbe essere Vaseline. Guardiamo se ho azzeccato quello giusto. Queste sono le Slints sicuramente, e anche sicuramente siete sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. E queste erano Les Lins con Vaseline. E ora cambiamo decisamente genere, decisamente relativamente, via diciamo. E un altro ringraziamento che vorrei fare, perché questo è un altro album che a me è piaciuto tantissimo, che non conoscevo. E infatti vi voglio proporre un paio di brani da questo album. Qui stiamo già andando in un altro ambito, anche se possiamo dire quantomeno confinante con una certa un certo pensiero punk, ma qui siamo già nel, possiamo definirlo dub industrial, forse. Passatemi la definizione, tanto poi le etichette non servono a una mazza, come giustamente saprete. E stiamo parlando di questo album, sempre di inizio anni 80, di Mark Stewart e i Mafia. E ci andremo ad ascoltare da questo album, che è Learning to Cope with Cowardice. Ci andremo ad ascoltare innanzitutto per prima la title track, che è la prima traccia del lato A, notevole, devo dire. Ascoltiamocela e poi mi saprete dire se è piaciuta anche a voi. Cambiamo decisamente genere, però altrettanto pompissima e altrettanto sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. strong style. I think I'm learning to cope with cowardice. I think I'm learning to cope with cowardice. Restrained. Docile. E questa era la prima traccia, appunto, Learning to Cope with Cowardice di Mark Stewart plus Mafia. E come promesso volevo farvi ascoltare anche un altro brano preso sempre da questo LP, ma in questo caso è sull'altra facciata, e sarà The Paranoia of Power. E appunto ricordandovi che sono da solo, quindi mi sentirete allontanare per cambiare il lato al vinile, ma non vi preoccupate, sarà un attimo, lo faccio quasi senza guardare, magia come Silvan. Guardatemi, ci sono, sono ripartito, e questa sempre di Mark Stewart plus Mafia, da questo LP ci andremo ad ascoltare The Paranoia of Power, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. E questo era il secondo brano, appunto, tratto da questo album di Mark Stewart e i Mafia. Questa era The Paranoia of Power. Bellissimo pezzo dove, tra l'altro, qui sì che si sente la fortissima presenza e il grandissimo riverbero del dub all'interno del loro lavoro. E come prossimo vinile che ho appoggiato qua sul deck dell'altro giradischi, fortunatamente, meno male, funziona tutto stasera, e è un vinile che avevo già messo in una precedente puntata di Basement Records. È il disco è dei Rip Rig Plus Panic, Am I Cold, del 1982, già messo appunto, questo album, un album speciale per i Rip Rig and Panic, infatti vede il featuring del grandissimo trombettista jazz Don Cherry, ma è un po', se non ho capito male, questa formazione dei Rip Rig and Panic è un po' un all-star team. E appunto, proprio per questo pensavo valesse la pena di riproporre sui piatti questo vinile di Radio Comanci, e appunto andarci ad ascoltare un altro brano tratto da questo Am I Cold, appunto, del 1982, e in questo caso ho scelto l'ultima traccia del lato A. Questa è Take a Donkey to Mystery. Questi sono i Rip Rig Plus Panic featuring Don Cherry, sempre tutto rigorosamente in vinile, e ovviamente perché siamo qui a Basement Records, Radio Wombat. Welcome to the cookie jar. Welcome to the cookie jar. Welcome to the cookie jar. Welcome to the cookie jar. No cookies in the cookie jar. And there ain't no cookies in the cookie jar. Who took cookies from the cookie jar? You mean there ain't no cookies in the cookie jar? Little brother gone, little sister, don't tell them what you really know. Che meraviglia! Secondo me ne valeva assolutamente la pena di andarci a recuperare un'altra traccia da questo vinile. E appunto stesso identico discorso vale esattamente per l'altro LP che ho appena appoggiato sul giradischi, anche questo un grandissimo classico del post-punk di inizio anni 80. Stiamo parlando del secondo storico album dei Gang of Four, dei nostri carissimi amici, anche loro come i Cress per indole e tutto, di Radio Wombat, di cui tra l'altro ho fatto anche, non per farmi sempre pubblicità, è per carità, per farvelo recuperare non sia mai, ma ho già fatto una trasmissione monografica per Tonight Alive, quindi non credo di dover dare altre spiegazioni di presentazione su questo gruppo veramente mitologico. E da questo Solid Gold adesso ci andremo ad ascoltare la prima traccia del lato A, Paralyzed. Questi sono i Gang of Four, Tonight Alive. E no, è come, vedi, mi sbaglio sempre, almeno se non faccio questo errore almeno una volta a trasmissione non sono contento, ma ovviamente è Basement Records, Radio Wombat. Good at what I do. crows come home to roost, and I'm the Duke. Questa era Paralyzed dei Gang of Four. Come fare a non rimettere un pezzo come questo? E vale anche esattamente, ormai tanto siamo entrati in questa linea, per l'ultimo brano della puntata di stasera di Basement Records, un altro vinile già riproposto in una vecchia puntata di Basement Records, sempre qui della collezione gentilmente prestataci da Radio Geronimo e Antenna Libera Toscana in precedenza. È uno dei miei, lo ripropongo giusto in chiusura perché è uno dei miei preferiti di quest'ultima, speriamo non sia letteralmente l'ultima, dei vinili che ci arriveranno da Radio Comanci. E questo è My Life in the Bush of Ghost, l'LP di Brian Eno e David Byrne, che ha segnato con il fuoco direi gli anni 80, un grandissimo classico di quegli anni, quell'inizio degli anni 80, una cosa che era quasi aliena quando uscì. E appunto come ultimo brano di stasera metterò l'ultimo brano del lato B di questo magnifico LP, anche perché non a caso il titolo è A Mountain of Needles, e sapete che io con le montagne quando le vedo non posso resistere. E quindi questi sono Brian Eno e David Byrne, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. e sentite come si sentano i frusci dei solchi del vinile, che meraviglia. E questo era appunto l'ultimo brano del lato B di questo My Life in a Bush of Ghosts, era il brano di chiusura della puntata di stasera di Basement Records, ma come sempre prima di lasciarvi vi rinnovo l'appuntamento qui sulle frequenze di Radio Wombat con il palinsesto di domani, con il palinsesto domenicale di Radio Wombat, che come sempre inizierà con Container alle 10 con la diretta di Container alle 10 la mattina, che poi proseguirà con il notiziario anticlericale di mezzogiorno all'ora di pranzo. A seguire ci sarà la replica dell'ultima puntata di Wook Wops per tenerci aggiornati su quanto sta succedendo dall'altro lato dell'oceano, versante californiano. Poi, soprattutto in questo periodo, la prossima diretta di Poyuit alle 15.30, il programma che ricorda la diretta emanazione del Festival della Letteratura Sociale, che tra l'altro si terrà a breve in questi giorni, a fine mese, a fine maggio, alla Polveriera Spazio Comune. Invito tutti gli ascoltatori almeno a farci un salto, ormai un appuntamento classico, uno degli appuntamenti culturali classici dell'ambiente, una tre giorni di cultura, di letteratura, di interviste, e chi più ne ha più ne metta, e tutti gli annessi e i connessi che gravitano intorno appunto al Festival della Letteratura Sociale, per poi appunto proseguire con la diretta della Fuga del Gatto alle 18 con Bloody Mary e la Virgi, che appunto allieteranno la nostra domenica pomeriggio con ormai storica trasmissione di musica classica qui su Radio Wombat. E poi proseguiremo con l'altra diretta, un programma fittissimo quello domenicale di Radio Wombat, proseguire con l'altra diretta dell'Arte del Vizio in diretta alle ore 19 qui sulle frequenze di Radio Wombat appunto, e poi il palinsesto si chiuderà alle ore 22 con la replica dell'ultima puntata di Uru, che ricordo in questo momento è in pausa, ma non vi preoccupate, non è conclusa, poi torneranno a fare nuove puntate qui su Radio Wombat. Quindi non mi resta che augurarvi un buon sabato sera e un buon proseguimento di weekend, e con il qui presente Pena Fuoco rinnovo l'appuntamento con molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, una nuova puntata di Tonight Alive sabato prossimo, in diretta il sabato ovviamente alle 10:30, con le repliche il martedì alle ore 11 e la replica mattutina del venerdì alle 10, perché si fosse perso appunto le due precedenti. Allora, un buon fine settimana a tutti e, come sempre, viva Radio Wombat! Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore.